sì, ma il vostro valor che sulla fronte mi fermò la corona. Oggi alla mia felicità nulla più manca o duci. Mancavi ancora la miglior gemma, e questa sarà. Che? Di Teuzzola la testa. La testa sua? Tu impallidisci, e te? Fregio della vittoria è la clemenza. Clemenza intempestiva, toglierci può della vittoria il frutto. Lui prigionier temer si deve. Si deve la sua vita tenere, la sua sciagura. Ma sento anch'io, ma si maturi il colpo. Facendo pratador lungo consiglio, ed il lento riguardo e gran periglio. Or son mi rendo, moro, ora Teuzzo, ma giusta sembri il regno, la man che lo condanna. Le sue colpe all'esame pongansi umai, legge le pesi, e dia la sentenza fatal, ragion non aio. Giudici voi ne siate, e il gran decreto poi la destra real sentì e sospiro. Sì, giudicato e morrà.